Amici, allora prendiamo in mano il nostro libro, Il Falsario, il titolo La lotta quotidiana contro Satana, è il sottotitolo. Questo libro, come già vi ho detto, è un libro contro il demonio, un libro che ho scritto contro il demonio, non si può, cioè è da collocare questo libro nel combattimento spirituale. Come già vi ho detto, un libro che si basa esclusivamente sulla Bibbia e sul Catechismo della Chiesa Cattolica e ha come scopo appunto quello di rendersi consapevoli delle insidie del demonio laddove il demonio è più pericoloso, e cioè nella vita quotidiana, nelle tentazioni della vita quotidiana. Naturalmente il demonio è pericoloso non solo nella seduzione della tentazione, ma anche negli attacchi improvvisi e anche negli scoraggiamenti. Vedremo comunque poi tutte le forme di insidia con cui il demonio opera nella vita quotidiana. Dicevo che questo libro va collocato all'interno del combattimento spirituale, dove i nemici sono il nostro io, la nostra carne, il nostro essere umano bollato dal peccato originale, quindi che ha dell'inclinazione al male. Il nemico numero due è il mondo, con tutte le sue insidie, con tutte le sue seduzioni, e poi naturalmente il nemico numero tre è il demonio, diciamo numero tre perché si nasconde, perché lui opera nascosto dietro il mondo, dietro gli uomini, le realtà di questo mondo, ma opera anche nascostamente, nel senso che per entrare nella fortezza della nostra anima cerca le alleanze interne. Queste alleanze interne sono quelle delle nostre passioni. Noi abbiamo già visto i primi due capitoli, cari amici, di questo nostro libro di catechesi. Il primo capitolo era la vita cristiana, una lotta, e abbiamo visto appunto quali sono i nemici e qual è l'esito finale di questa lotta, cioè la salvezza eterna della nostra anima. Poi nel capitolo secondo abbiamo analizzato uno dei titoli biblici del demonio, cioè principe delle tenebre, e abbiamo detto che Satana sfugge alla nostra conoscenza. Noi lo conosciamo fondamentalmente perché Dio ce lo fa conoscere attraverso la sua parola, attraverso la Bibbia, ma soprattutto è Cristo che ci ha manifestato la potenza di Satana e il suo potere sugli uomini, in quanto Cristo appunto è colui che è venuto per strappare questo mondo dal potere del maligno e per sconfiggerlo. Quindi noi, cari amici, parliamo di una realtà misteriosa, pericolosa, feroce, indubbiamente, che però siamo in grado, insieme a Cristo, di combattere e di vincere. Col capitolo terzo, intitolato L'origine del male, noi, cari amici, ci siamo posti il problema di come abbia avuto origine Satana. Come abbia avuto origine. Voi sapete che Satana ama farsi adorare. E lo sappiamo anche dalla Sacra Scrittura, in particolare dal Vangelo. Sia Luca sia Matteo, quando ci riferiscono le tentazioni di Gesù, ambedue ci riferiscono di questa proposta. Ambedue ci riferiscono di questa proposta del maligno di farsi adorare in cambio, appunto, dei regni del mondo. Quindi il maligno ci tiene a farsi adorare, ci tiene a presentarsi agli uomini come un dio, come l'antidio, come colui che contesta e che contende a Dio il primato assoluto, come colui che contende a Dio la divinità. E questo mostra, cari amici, quanto sia presuntuoso, quanto sia smargiassone, quanto sia superbo. A Satana dà fastidio che a lui venga ricordato che è una creatura, che è stato creato dal nulla e che comunque non potrebbe neanche continuare a essere conservato nell'essere se Dio non lo conservasse nell'essere. E quindi questa lezione di catechesi darà certamente molto fastidio a Satana. Perché? Perché con essa noi appunto mettiamo in luce il fatto che lui è una creatura, non è Dio. E che anche lui, nonostante il suo odio nei confronti di Dio e nonostante la sua pretesa di essere Dio al posto di Dio, anche lui è dipendente da Dio. È conservato nell'essere da Dio. Non potrebbe sussistere se Dio non lo facesse esistere, se Dio non gli conservasse l'essere. Come sapete, cari amici, più volte l'abbiamo detto, la creazione non consiste nel fatto che in un istante del passato Dio ci ha chiamato all'esistenza. La creazione è continua, cioè Dio ci chiama continuamente all'esistenza. Noi siamo come, non so come dire, un ciottolo che Dio tiene in mano. Se non lo tenesse in mano cadremmo per terra. Beh, se Dio non ci tenesse in mano cadremmo nel nulla. Quindi non è che noi esistiamo per forza nostra. Noi esistiamo perché Dio ci fa esistere. E naturalmente a Satana dà fastidio ricordare che prima era un nulla che è venuto all'essere per volontà di Dio e che è conservato nell'essere da Dio stesso. Gli dà molto fastidio, lui che vuole essere Dio al posto di Dio, gli dà molto fastidio ricordargli che è una creatura, quindi limitata, e quindi il suo potere, per quanto grande, è limitato, che noi abbiamo a che fare non con una onnipotenza, ma soltanto con una potenza. E soprattutto gli dà fastidio che delle creature, e cioè non solo Maria, ma tutti noi, con Cristo possiamo indubbiamente combatterlo e vincerlo. Abbiamo detto nel primo paragrafo del capitolo terzo che tutta la creazione di Dio, sia quella visibile, sia quella invisibile, è buona. Dio non ha creato Satana. Tutta la creazione, sia quella delle realtà materiali, sia quella degli angeli, sia quella che stanno a metà fra la sintesi, come ben chiamata, no? L'uomo è la sintesi fra il mondo invisibile e il mondo visibile. Ebbene, sia la realtà materiale, sia l'uomo, sia gli angeli, sono creature di Dio e sono buone. Allora, com'è che Satana è diventato Satana? Dunque, va detto, e enuncio la verità di fede, poi la approfondiamo. Satana è stato creato come angelo buono, è diventato cattivo per sua decisione. Cioè, lui ha pervertito se stesso. In che modo? Non accettando la sottomissione a Dio. Lui ha pervertito se stesso ribellandosi a Dio. Non accettando la sottomissione a Dio. Ecco come Satana è nato. Con un atto di ribellione, di superbia. Ha pervertito se stesso. Allora noi a pagina 21 vediamo questo, che è un paragrafo molto importante, perché alla luce della Bibbia e del Catechismo della Chiesa Cattolica descriviamo come ha avuto origine Satana. Ed è questo un tema poco conosciuto, anche perché non è che ne parli molto la Bibbia, però ne parla in alcuni testi ed è molto interessante portarli alla luce, integrarli con l'insegnamento del Catechismo della Chiesa Cattolica e così rendersi consapevoli di come ha avuto origine Satana, di come Satana è diventato Satana. Allora io scrivo a pagina 21, nelle pagine della Genesi noterai che nello splendore immacolato della creazione, cioè splendore immacolato perché la creazione è buona, dove l'uomo occupa un posto centrale per dignità naturale e per i doni di grazia ricevuti, vi è una presenza oscura e inquietante. Cioè il paradiso terrestre dove c'è Adamo ed Eva, c'è una presenza oscura e inquietante. Il paradiso terrestre rappresenta il coronamento del disegno di Dio creatore, che colloca l'uomo in una situazione esistenziale di felicità naturale e soprannaturale. Infatti, oltre alla grazia sublime della divina amicizia, che gli dà la possibilità di vivere un rapporto a tu per tu con Dio, l'uomo, cioè Adamo ed Eva, possiede doni straordinari, come quello della sapienza, dell'immortalità e dell'integrità, che lo coronano di gloria divina su una terra che ha ancora il candore della creazione prima del peccato. Dunque, anche la fotografia che ho posto nella copertina, no, di Adamo ed Eva, che nel paradiso terrestre sono collocati in una dignità straordinaria, perché hanno il dono della grazia, quindi dell'amicizia divina, e poi dei doni straordinari come la sapienza, come l'assenza del dolore, l'integrità, cioè la perfetta obbedienza del corpo all'anima, e anche il dono dell'immortalità. Però c'è una presenza misteriosa, c'è un serpente, cioè c'è la presenza del male. È già presente il male nel paradiso terrestre. Dunque, in questo scenario, dove la creazione prima del peccato ha ancora il suo splendore immacolato, dove Adamo ed Eva vivono circonfusi di grazia e di gloria, il male è già presente, ancora prima della caduta dei genitori. Ci sa il serpente. Infatti, dietro la loro scelta disobbediente, cioè quella di Adamo ed Eva, c'è una volontà seduttrice che si oppone a Dio. Lo troviamo in Genesi capitolo 3, vi ricordate? Questo serpente. C'è una volontà seduttrice che si oppone a Dio e che per invidia li fa cadere nel peccato e nella morte, come ci dice il Libro della Sapienza, al capitolo 2, verseto 24. Quindi vedete che c'è presente questa volontà disobbediente e seduttrice dietro il peccato di Adamo ed Eva. Si tratta, naturalmente, il serpente è un simbolo, dietro il quale si nasconde il demonio, come dice il Libro della Sapienza, al capitolo 2, verseto 24. Quindi si tratta di una realtà intelligente e maliziosa, come si evince dalle parole che pronunciano. Si tratta di una realtà intelligente e maliziosa che si erge contro Dio, mettendo in dubbio la sua bontà e la sua parola di verità. Cioè insinua, questa volontà pervertitrice insinua in Adamo ed Eva il dubbio su Dio e inocula la ribellione a Dio. Ma nel medesimo tempo, questa realtà intelligente e maliziosa, nel medesimo tempo minaccia pericolosamente l'uomo, cercando di privarlo dell'amicizia divina e dei doni che ha ricevuto. Quindi, cari amici, leggendo Genesi 3,15, quando il serpente parla, noi vediamo che questa realtà intelligente e misteriosa insinua il dubbio e la ribellione e nel medesimo tempo tenta di rapinare l'uomo dei doni divini che ha ricevuto. La scrittura, vedi Giovanni 8,44, Apocalisse 12,9, la scrittura e la tradizione della Chiesa, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica numero 391, vedono in questo essere un angelo caduto chiamato Satana o Diavolo. Quindi vedete, cari amici, fin dall'inizio della Bibbia appare questa realtà intelligente e maliziosa che incita l'uomo a ribellarsi a Dio, che vuol rapinare l'uomo dei suoi doni divini. La scrittura, Giovanni 8,44, Apocalisse 12,9 e il Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 391, vedono in questo essere, questo serpente, in questa realtà misteriosa, maliziosa, intelligente, perversa, pervertitrice, vedono, che cosa vedono, cari amici? Un angelo caduto, chiamato Satano o Diavolo. Quindi faceva la comparsa nel paradiso terrestre. Noi ci domandiamo in questo momento, cari amici, qual è la sua origine? Ti rendi conto, scrivo, che rispondendo a questo interrogativo siamo in grado di gettare un fascio di luce sul mistero riguardante l'origine del male. Cioè, uno degli interrogativi fondamentali di tutte le religioni è proprio questo. Da dove il male? Qual è l'origine del male? Ebbene, cari amici, a questo interrogativo si risponde compiutamente chiedendoci qual è l'origine di Satana. Noi, risolvendo il problema, l'interrogativo, rispondendo all'interrogativo sull'origine di Satana, noi rispondiamo all'interrogativo sull'origine del male. Allora cerchiamo di dare la risposta alla luce della fede, cari amici. Nella tua professione domenicale di fede, cioè quando dici il credo alla domenica, affermi di credere in Dio creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Che cosa sono le realtà invisibili create da Dio? Sono gli angeli. Sulla loro esistenza non vi sono dubbi, essendo presenti come messaggeri di Dio in tutto l'arco della storia della salvezza, testimoniata dalla Sacra Scrittura. Quindi gli angeli sono, popolano la Scrittura, quindi sono rivelazione divina. Gli angeli, però, attenzione, sono esseri nell'ambito della creaturalità. Cioè sono creature, creatore, credo in Dio, creatore di tutte le cose visibili e invisibili. Sono creati. Questo significa che ognuno di essi è stato creato dal nulla direttamente da Dio. Ogni angelo è stato creato dal nulla direttamente da Dio. Non sono eterni, come diceva Platone, o come dicono magari gli induisti. Sono creati dal nulla da Dio. Sono purissimi spiriti, dotati di intelligenza, consapevolezza e libera volontà, senza limiti o le potenzialità del corpo che è proprio dell'uomo. Quindi non hanno quei limiti che sono i limiti della materia. Anche noi siamo spiriti, ma spiriti incarnati, quindi abbiamo le ricchezze, ma anche i limiti della materia. Secondo San Tommaso d'Aquino, gli angeli sono più potenti e intelligenti degli uomini per natura. Quindi anche il demonio, che è un angelo pervertito, per natura è più potente e intelligente dell'uomo. Quindi gli angeli sono più potenti e intelligenti dell'uomo per natura, non per grazia, perché per grazia noi siamo più forti del demonio. E superano, dice sempre San Tommaso d'Aquino, in perfezione tutte le creature visibili. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, a riguardo al numero 330, dice: lo testimonia il fulgore della loro gloria. E qui cita Daniele al capitolo 10, versetto 9. Quindi, cari amici, c'è un insegnamento, che potremmo dire con salde radici bibliche e anche del Magistero e nei grandi teologi, secondo cui per natura gli angeli sono superiori all'uomo, perché hanno più intelligenza e più libera volontà, non hanno i limiti della materia. È bensì vero che l'uomo in qualche modo, c'è anche un'altra tesi teologica, no? Secondo cui l'uomo, in quanto sintetizza il mondo spirituale, il mondo materiale, è ancora più grande degli angeli. Sì, da questo punto di vista si potrebbe dire che anche l'uomo, in quanto sintesi di materia e spirito, ha delle ricchezze che gli angeli non hanno. Però non c'è dubbio, cari amici, che l'angelo è capace di scelte irreversibili e ha una intelligenza, una potenza superiore alla nostra. Questo è anche, fra l'altro, ospitato questo concetto nella Sacra Scrittura. nel Salmo 8, dove si celebra la grandezza dell'uomo, ma si dice l'hai fatto poco meno inferiore degli angeli. Guardate che qui parliamo della superiorità degli angeli sull'uomo per quanto riguarda la natura, non per quanto riguarda la grazia. Perché per grazia non dimentichiamo che l'uomo è superiore agli angeli. Perché? Perché Dio si è fatto uomo. Perché la divinità si è unita alla natura umana, non alla natura angelica. Quindi possiamo dire, cari amici, che per grazia la natura umana, essendo unita al Verbo, è superiore alla natura angelica. Ma per natura, in sé per sé, come realtà creata, la natura angelica è superiore a quella umana. Perché è più intelligente e più potente come volontà. E appunto il Catechismo sposa questa tesi dicendo lo testimonia il fulgore della loro gloria, quando si manifestano. Creati da Dio al vertice della perfezione, cioè come le creature più perfette, e quindi dotati di bellezza, bontà e splendore, alcuni di essi, quindi anche gli angeli, dotati di bellezza, bontà e splendore, furono anch'essi ricolmati di grazia. Ma prima di essere ammessi alla visione beatifica hanno subito una prova. Quindi, creati da Dio al vertice della perfezione, quindi dotati di bellezza, bontà e splendore, alcuni di essi, per loro autonoma decisione, sono diventati cattivi. Questo è un concetto chiave. Dio ha creato gli angeli buoni, loro, per loro spontanea volontà, staccandosi da Dio, ribellandosi a Dio, hanno pervertito se stessi. Quindi l'origine del male è nato per il cattivo uso della libertà angelica. Il male è nato per il cattivo uso della libertà angelica che non ha accettato la sottomissione a Dio. Dio non ha creato Satana perché egli, infinitamente buono, non poteva creare un essere malvagio. Satana è diventato tale per scelta propria, perché, come dice Gesù in Giovanni 8,44, non ha perseverato nella verità. Cioè, secondo San Tommaso, gli angeli creati furono elevati in grazia, quindi furono collocati nella verità, ma non perseverarono in essa. Alcuni di essi non hanno perseverato nella sottomissione a Dio, nella verità del loro essere creato. Hanno voluto essere Dio al posto di Dio e quindi hanno peccato di menzogna, perché essendo creatura hanno voluto essere Dio. Dunque Satana è diventato tale per scelta propria, perché non avendo perseverato nella verità, come afferma Gesù, ha pervertito se stesso. E qui citiamo San Giovanni Damasceno, che è uno che ha lasciato una frase degna di essere poi ospitata anche nel Catechismo della Chiesa Cattolica. Il diavolo, infatti, e gli altri demoni sono stati creati da Dio naturalmente buoni, ma da se stessi si sono trasformati in malvagi. Ecco dunque, cari amici, come ha avuto origine il diavolo. Era un angelo buono che è diventato cattivo perché non ha perseverato nella verità, cioè nella sottomissione a Dio, nella verità della sua creatura, di essere creatura, ha voluto essere creatore, ha voluto essere Dio al posto di Dio. Quando è avvenuto questo, cari amici? Quando? San Giovanni afferma che il diavolo è peccatore fin dal principio, prima lettera di Giovanni 3,8, fin dal principio. Certamente quindi l'evento della ribellione è da collocare prima del peccato dell'uomo nel paradiso terrestre, poiché in quel momento Satana è già in azione qui sulla terra. Quindi certamente prima della caduta originale dei nostri genitori c'è stata la caduta angelica. La parola di Dio, cari amici, attenzione, getta qua e là raggi di luce su questa catastrofe originaria degli spiriti angelici con la quale è entrato il male nel mondo. Afferma infatti l'Apostolo Pietro, seconda lettera di Pietro, capitolo 2, versetto 4. Dio non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li precipitò negli abissi tenebrosi dell'inferno, serbandoli per il giudizio. Questo è il testo, cari amici, della Scrittura, dove si parla esplicitamente del peccato degli angeli. Seconda lettera di Pietro, capitolo 2, versetto 4, dice l'Apostolo Pietro, Dio non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li precipitò negli abissi tenebrosi dell'inferno, serbandoli per il giudizio. L'Apocalisse, invece, ci presenta un altro scenario, ma anch'esso molto interessante, uno scenario grandioso, in cui colloca la battaglia, la grande battaglia, fra gli angeli buoni e quelli pervertiti. Dice infatti Apocalisse 12,7-9. Dunque, Pietro, seconda lettera di Pietro, capitolo 2, versetto 4, e Apocalisse, capitolo 12, versetti 7-1, sono i due grandi testi che ci parlano della caduta degli angeli, quella originaria. Dice l'Apocalisse, scoppiò quindi una guerra nel cielo. Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme con i suoi angeli, ma non prevalsero e non ci fu più posto per essi in cielo. Il grande drago, il serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e Satana e che seduce tutta la terra, fu precipitato sulla terra e con lui furono precipitati anche i suoi angeli. Quindi è attestato dalla Sacra Scrittura questo peccato originario degli angeli, cari amici. Esplicitamente attestato. Ora ci chiediamo quale fu questo peccato originario degli angeli, quale fu? Ci siamo chiesti quando fu all'origine dei tempi, all'origine prima ancora del peccato originale, in che cosa consistette? Al riguardo c'è un testo di Apocalisse 9,1 che dice quale fu dunque il peccato per cui l'astro è caduto dal cielo sulla terra, ricevendo le chiavi del pozzo dell'abisso. Attenzione, cari amici. Sul peccato degli angeli, sul fatto che abbiano peccato originariamente, è di fede. In che cosa consistette? Ci sono molte opinioni teologiche, anche apprezzabili, ma se esaminiamo la Bibbia con attenzione, ci sono tracce sufficienti per comprendere con certezza quanto basta. A questo riguardo, le parole rivolte dal tentatore ai nostri progenitori sono molto eloquenti. Cioè in Genesi 3,5 il serpente dice ai progenitori, diventerete come Dio. Che cosa significa? Ti rispondo con San Tommaso d'Aquino, dicendo che Satana desiderò essere simile a Dio e partecipe della sua beatitudine. Non per dono di grazia, ma appropriandosene con le proprie forze naturali. Geloso di Dio, dice sempre San Tommaso d'Aquino, vuole ottenere lo splendore della divinità, non accogliendolo con umile sottomissione, ma rapinandolo con orgogliosa presunzione. Il suo peccato, dice San Tommaso d'Aquino, fu la brama di avere di più e di possedere di più. Si trattò quindi innanzitutto e soprattutto di un peccato di superbia, col quale l'angelo tramutò se stesso in un demonio. Quindi, cari amici, sul fatto di questo peccato originario degli angeli abbiamo attestazioni bibliche ben precise, seconda Pietro capitolo 2 e Apocalisse capitolo 12. In che cosa consistette questo peccato? Abbiamo delle tracce. Per esempio in Genesi 3,5, dove il serpente dice diventerete come Dio. C'era in e poi anche il nome di Michele, chi è come Dio. C'era quindi in questo angelo originario, bellissimo, Lucifero, e nei suoi seguaci la pretesa della divinità senza sottomettersi a Dio. Volevano essere Dio al posto di Dio. Di più, cari amici, sull'origine del male non possiamo sapere. Cioè quello che ci è rivelato è questo. Ma quanto ci è stato rivelato, anche se non appaga tutte le nostre curiosità, è però fondamentale. E cioè, tutto ciò che Dio ha creato è buono. Il male è stato originato per decisione di quelle creature, angeliche prima e umane dopo, che essendo state dotate di libera volontà, hanno voluto disubbidire a Dio. Il male è quindi una possibilità della creatura libera finché permane il tempo della sua prova. Per gli angeli la prova è durata un solo istante, per gli uomini continua tutta la vita. possiamo certo riflettere ancora più a fondo di quanto